Ciao ragazze! Ciao! Ciao! Dai, va bene, iniziamo! No, no, said I've pondered long, listening to Mother Nature's song. And let me tell you, son, life ain't just for fun. But if you want to have a ball, here's how you get it done. You got to do. Buonasera, buonasera a tutte e tutti, tutto lo ascoltatorio di Radio Wombat. Questa è Nervature, come ogni lunedì alle 19 circa. Eppure oggi non è lunedì, incredibile. Allora, io devo fare un po' di operazioni complesse quest'oggi, tra cui accendere un sacco di microfoni, perché non sono da sola qui in regia, sono benissimo accompagnata, se volete iniziare a farvi sentire in modo creativo. Prova. Eccole, eccoli. Perfetto. Buonasera anche a voi. Dunque, mi sembra doveroso annunciare cosa succederà quest'oggi in questa rumorosa regia. Quest'oggi andiamo avanti con l'audiolibro. No, che palle, noioso. Invece no, stavolta non sarà noioso, sarà bellissimo. Perché, esatto, perché ho un sottofondo live come le scorse volte, ma stavolta ho ben tre musicisti incredibili, professionisti, meravigliosi qui davanti a me, stupendi, quindi non vedo l'ora di vedere cosa ci c'era fuori. Però andiamo con calma e direi di mettere prima un brano per cominciare, che ne pensate? E presentiamo questo brano magari? Allora, perché dovete sapere, ascoltatrici, che due delle persone qui in regia con noi sono del gruppone Arrangia Meccanica, che già un'altra volta... Che già una volta, infatti, sono state qui in regia con noi. Quindi oggi facciamo il sequel, come si dice? La seconda parte. La seconda parte, esatto, esatto. La vendetta. No, prima il ritorno. La vendetta sara la prossima. Clara, come stai oggi? Mi sembri bella e sudata. Sì, sì, e sì, anche sì, bella sì, sudata. Sì, sì, sempre. Quindi ragazzi, allora, ci ho ospitato. Prego. Mettiamo primo brano, plot twist, volete dire qualcosa? Plot twist. Del beer. Love dream. Prendi Ed eccola, questa era su Plot Twist, Arrangia Meccanica, grazie per... no, sì, questa dopo, con calma, Non ci siete? Ci siete? Non ci siete? Ora ci siete. Ora ci siete, okay, tutte. Okay. Vuoi dire qualcosa anche te, Matte? Dimmi. Perfetto. Lui non parla. Rumorista. Sì. Ok. È difficile dare inizio a questa puntata, però per farlo mi faccio la paraculata di darvi i contatti della radio. Radio Wombat la trovate dal sito radiowombat.net, andate a spulciare un sacco di belle infos, bei podcast, belle dirette. Sulle 13.59 AM invece sempre ci potete ascoltare in diretta, se no bello streaming anche. Trovate dal sito anche un sacco di informazioni utili, tipo la casella di posta, tipo il pad con cui potete parlare con noi in diretta, infatti non oggi, perché oggi non è lunedì per l'appunto, e, nel senso che siamo in diretta, quindi non in diretta, siamo registrati, perciò non ci potete scrivere sul pad, no, o meglio potete, dire, ma... sì, è andata così. Vabbè, succede. E quindi niente, siamo registrate, potete comunque scriverci sul pad, ma non la leggeremo, perciò tanti baci e abbracci lo stesso. Che dire, potremmo iniziare questo quarta puntata di audiolibro. Di che libro? Lo ridiciamo. Memorie di un vecchio giardiniere, Reginald Arkell. E quindi niente, date sfogo alla vostra creatività per questo sottofondo, fate quello che volete, sarete meravigliose sicuramente. All'inizio del nuovo secolo le cose cominciarono finalmente a cambiare. Morì la regina Vittoria e il principe di Galles divenne re d'Inghilterra, quando ormai era troppo tardi perché la cosa per lui avesse qualche importanza. A quei tempi era così che andavano le cose. I vecchi rimanevano attaccati al loro impiego lucroso fino a quando i loro figli avevano ormai l'età della pensione. Bert Pinnegar non era uno che leggesse molto, ma se lo avesse fatto sarebbe stato d'accordo con ciò che diceva il nuovo poema di Rudyard Kipling sulle persone come il signor Addis, che credevano di essere vive mentre invece erano morte. Già, eccolo lì, Bert, a 30 anni, è ancora trattato come un ragazzetto di nessuna importanza. Proprio in un momento in cui era particolarmente abbattuto, in Sudafrica cominciarono i disordini contro il dominio britannico e uno dei giovani aiutanti che lavorava nella serra fu spedito laggiù a dare una mano. Bert Pinnegar, che era stato esentato al servizio militare, ottenne il suo posto. All'inizio non ne fu contento. Dal giorno di quella storia con Sof aveva sempre evitato la serra e inoltre nutriva la diffidenza tipica del campagnolo verso le cose esotiche. Tutti quegli esploratori, come il dottor Livingstone, che giravano il mondo e ritornavano con delle piante strane, sconosciute, che poi cosa erano quando le consegnavano ai giardinieri? Una seccatura, ecco che cos'erano. Bastava che il termometro scendesse di un paio di gradi ed erano belle che andate, e bastava che un fiore sfiorasse l'altro perché entrambi si rovinassero. Però, senza imparare la coltivazione in serra, non si faceva strada. Un capo giardiniere doveva conoscere un po' di tutto e se rifiutava di fare un certo lavoro, un altro l'avrebbe fatto al posto tuo e ti sarebbe passato avanti. Bert Pinnegar accettò ciò che il cielo gli mandava e si sforzò di farlo con animo grato. Dopotutto, la serra era utile per gli stadi iniziali della coltivazione prima di trasferire le piante all'aperto, per proteggere dal maltempo quelle più delicate e poi anche altre cose ancora. La signora Charteris aveva la fissazione delle primizie e non faceva che pungolarli per ottenerle. Il guaio era che il signor Addis non raccoglieva i fagiolini finché non erano lunghi quanto un braccio e diceva che mandare i piselli alla cuoca prima che fossero tanto grossi da valere la pena di essere guardati, ovvero grossi come quelli che partecipavano ai concorsi, era sciupare il ben di Dio. E le patate? Per avere un raccolto precoce, alcuni le seminavano prima del Venerdì Santo, ma se a maggio c'era una gelata, era stata fatica sprecata. Il signor Addis non era tipo da correre certi rischi, e nonostante la signora Charteris facesse di tutto e di più per avere delle patate novelle, il capo giardiniere si dimostrò un osso troppo duro per lei. O il terreno era troppo duro, oppure le patate da semina erano arrivate troppo tardi dalla Scozia, e chissà cos'altro. Quando poi capitava una gelata, lui si presentava in cucina con una manciata di gambi anneriti e le depositava sul tavolo. Era sempre pronto a girare il coltello nella piaga, il signor Addis. Nelle scaramucce fra i due, Bert Pinnegar rimaneva neutrale, non perché avesse paura a schierarsi da una parte o dall'altra, ma perché aveva capito che era un rischio, come gettare in aria una moneta o puntare su un numero alla fiera. Ad alcuni piaceva azzardare, e se perdevano era solo colpa loro. Il signor Addis, da buon cristiano, non appoggiava il gioco d'azzardo e aveva tutto il diritto di pensarla come voleva, specialmente quando poteva citare le sacre scritture. Darà frutta a suo tempo, per dimostrare di avere il Signore dalla sua parte. Bert Pinnegar ci ripensò e decise che, dopo tutto, le serre offrivano qualcosa di positivo. D'accordo, non ci si potevano coltivare le patate, ma le fragole? Una mattina, dopo una brinata... Arrivo. Bella mattina. Sono ragazzi, suonate, veloce. Distraiamo il pubblico. Facciamo finta di niente. Le fragole. Fragole. Una mattina, dopo una brinata notturna, quasi gli si spezzò il cuore vedendo in mezzo ai boccioli quell'occhietto nero, un intero appezzamento coltivato a fragole andato in malore in una notte. No. Senza dire niente a nessuno, in ottobre piantò in vaso una mezza dozzina di stoloni di fragole e li sistemò nella serra. Ma non successe niente. Le piante man mano si rimpicciolirono e per quanto facesse non riuscì a salvarle. Poi si ricordò che le fragole non temevano il freddo se non durante la fioritura. E così, l'anno dopo, aspettò febbraio e ritentò l'esperimento. Nel frattempo, la signora Charteris aveva tenuto d'occhio il lavoro che Bert faceva nelle serre, e ciò che vedeva non era di suo gradimento. Fino a quel momento, la linea di condotta che aveva seguito, di tirarlo su un poco alla volta, aveva dato ottimi risultati. Ma sembrava che improvvisamente il ragazzo fosse arrivato a un punto morto. O aveva perso interesse al giardinaggio, oppure, il che era più probabile, mancava della preparazione necessaria per aspirare a incarichi più impegnativi. Lo osservò attentamente per tutto l'inverno, gli diede consigli e lo stimolò in ogni modo, ma sembrava che Bert non riuscisse ad adattarsi al nuovo ambiente. La signora Charteris era perplessa, delusa. Infine decise che doveva operare un cambiamento. Il giovane Bert Pinnegar non aveva superato la prova. E poi successe una cosa sorprendente. Un pomeriggio, verso la fine di aprile, alla villa era stato invitato un gruppetto di amici per il tè. Niente di troppo elegante, per carità, ma neppure una cosa informale come il tè di un giorno qualunque della settimana. La riunione era stata organizzata per presentare ai vecchi amici il notaio, nonché amministratore della proprietà, che era arrivato in visita da Londra. Alla signora Garlick era stato chiesto di mettersi d'impegno e, nonostante l'età avanzata, se l'era cavata bene. Dopo essersi tolti i cappotti ed essersi riscaldati davanti al grande camino, gli ospiti si apprestavano ad assaggiare i buoni manicaretti preparati dalla cuoca, quando il generale Anderson, con gli occhi fuori dalla testa, abbaiò come un vecchio cane da caccia che ha avvistato la preda. «Buon Dio, Charlotte! Dove mai le hai trovate?» Tutti si girarono a guardarlo, con l'eccezione della padrona di casa, che, messa sull'avviso da esperienze precedenti, gettò uno sguardo furtivo sul tavolino da tè. Il servizio migliore, la teiera d'argento, le squisite focacce imburrate alla perfezione della signora Garlick. Ma cosa mai si riferiva il suo ospite? «Fragole?» ruggì il generale. «Fragole in aprile? Quale altra meraviglia avete in serbo per noi?» La signora Charteris pensò che il vecchio soldato fosse impazzito, ma poi le vide una ciotola di fragole tanto perfette che neppure i signori Fortum e Mason, proprietari del negozio di alimentari più esclusivo della città, avevano immaginato nei loro sogni più lussuosi. Fu come se l'anno avesse fatto un gigantesco passo in avanti, depositandoli nell'ultima settimana di giugno. Se il generale aveva i miraggi, beh, li aveva anche la padrona di casa, che però seppe dissimulare la sorpresa. «Sì, generale», rispose con noncuranza. «Un po' di fragole. Non ne volete assaggiarle?» «Ma da dove provengono?» chiesero tre signore contemporaneamente. La signora Charteris si stava ponendo la stessa domanda, ma nuovamente si controllò. Suonò il campanellino d'argento e la governante, sorprendentemente lesta, apparve sulla soglia, con una voce che si sforzò di mantenere normale. La signora le chiese da dove provenissero le fragole. «Pinnegar le ha portate dalla serra 5 minuti fa», rispose la signora Garlick. «Riferitegli che voglio parlargli», disse la signora Charteris. Quando Bert Pinnegar comparve in quel Sancta Sanctorum, sperando che il tappeto bucara sul quale si era fermato lo portasse in volo verso altri lidi, la signora disse, rivolta al generale: «Generale, vi presento il mio giardiniere, che sa tutto in proposito. Pinnegar, il generale Anderson vorrebbe sapere come siete riuscito a ottenere delle fragole in questo periodo dell'anno». E Bert Pinnegar spiegò, con le parole chiare e semplici che si userebbero con un bambino intelligente, come aveva fatto. Disse che era inutile preparare gli stoloni di fragole in serra in autunno perché, per quanto li si annaffiasse, si seccavano. Bisognava invece invasarli in autunno, lasciarli all'aperto come le altre fragole e portarli nella serra verso febbraio, per tenerli al coperto prima che cominciassero a fiorire. Ecco tutto. Il generale Anderson ringraziò il signor Pinnegar della spiegazione tanto chiara e questi stava uscendo camminando all'indietro quando la padrona lo bloccò con una domanda. «Un momento, Pinnegar», disse: quale serra avete usato per il vostro interessante esperimento? Quella piccola in fondo, vicino alla buca di compostaggio, signora. Strano, non ho mai visto delle fragole lì. Le mettevo sotto la panca quando voi eravate da quelle parti, rispose Pinnegar. E perché? Chiese la signora. Perché volevo che fosse una sorpresa. Bene, Pinnegar, potete andare. Il signor Pinnegar si ritirò. Qui non si vuole suggerire che Bert Pinnegar sia passato alla storia come un pioniere dell'orticoltura. 50 anni fa la maturazione forzata delle fragole in serra non era una novità, ma quella sua ideuzza originale diede frutto. La signora Charteris rinunciò all'idea del cambiamento. Tutto considerato, la serra tradizionale si andava fossilizzando, stava diventando noiosa. Sotto la direzione antiquata del signor Addis produceva solo glonixie e ancora gloxinie, vabbè, era quello. Belle, ma non c'è che dire. Ma tutte le gloxinie si assomigliano e non è che con le gloxinie si possa fare un granché. Stavano lì, ben allineate, qua e là, una più grande dell'altra. Inoltre, ora che ci pensava, non le erano mai piaciute molto ed era stato carino da parte di Pinnegar il modo in cui aveva estratto le fragole dal cappello come se fosse un prestigiatore. A convincerla definitivamente fu l'ipomea blu. La signora Charteris, seguendo le orme della regina Vittoria, andò in vacanza in Costa Azzurra. Si fermò in un famoso albergo di Cimier. Visitò le coltivazioni di fiori di grasse e nel corso di una gita a Mentone passò un'ora nei deliziosi giardini della Mortola, poco oltre il confine con l'Italia. Sir Thomas Henbury, dopo essere ritornato dall'Oriente stracolmo di soldi, aveva piantato sul promontorio della Mortola una meravigliosa raccolta di piante e cespugli, eucalipti, agavi, cesuarie, creando un parco che si diceva fosse il più bello di tutta l'Italia, tanto che la regina Vittoria l'aveva visitato due volte e la seconda ne aveva perfino fatto qualche schizzo. Schizzo. Era il primo viaggio della signora Charteris in una zona dal clima subtropicale e ciò che vide la entusiasmò. Su un lato della costa vi erano i sugheri, i bambù ondeggianti e le magnole tripetali. Appollaiati sulle colline vi erano paesini moreschi e laggiù in fondo il Mediterraneo calmo luccicava come uno specchio enorme. In un giardino accanto a una villa piuttosto banale vide crescere all'aria aperta la bougainville, il plumbago, il gelsomino azzurro e la deliziosa bella di notte. I gerani erano grandi come alberi e, a quanto pareva, fiorivano tutto l'anno. Provò la sensazione di visitare il paese descritto da Lord Tennyson, quello in cui non cade pioggia, né grandine, né neve. Tuttavia, fu l'ipomea blu a rubarle il cuore. Da bambina le era piaciuto tanto coltivare lei stessa la campanella dei giardini e le aveva permesso di farlo perché così la mattina si alzava di buon'ora. Infatti bisognava andare ad ammirarla prima di colazione perché le più belle sfiorivano già a metà mattina e si rischiava di non vederle affatto. Agli adulti e ai giardinieri piaceva annusarne il profumo, trovandolo affine a quello del convolvolo bianco selvatico che si arrampicava faticosamente sulle siepi dei viottoli di campagna. Ma la signora Charteris, pur non avendola vista da anni, si manteneva fedele alla pianta prediletta dell'infanzia. Cosicché La prima volta che vide l'Ifomea blu in Costa Azzurra si controllò a fatica. Era un'orgia di colore, sparso ovunque, come se qualcuno avesse strappato grandi pezzi di cielo mattutino. Era così blu da fare quasi male agli occhi. Le parve che il cuore annegasse nella bellezza e riusciva a malapena a respirare. Un amico, notando quello strano comportamento, le chiese preoccupato se non sopportasse la calura. Lei neppure lo sentiva il caldo, provava la sensazione di volare, trasportata dal vento sopra un mare blu, sotto un cielo blu, verso una deliziosa terra che non c'è blu. Ritornata a casa, raccontò a Bert Pinnegar di quelle stupende ipomee blu. Tutte blu, così blu che una volta viste non se ne poteva più fare a meno. Per essere un campagnolo, Bert Pinnegar agì in fretta. Per una settimana ci pensò su, poi, sovvenendosi di un brano di conversazione che aveva sentito per caso tempo prima, scrisse all'amministratore dei Giardini Reali, che gli rispose con una lettera assai gentile. Il fiore in questione era la graziosa Ipomea leari, che cresceva rigogliosa all'aperto in climi subtropicali. Alcuni scrittori, fra i quali Farrer, la reputavano superiore alla genziana. In alcuni casi di estati particolarmente favorevoli era stata coltivata all'aperto anche in Inghilterra, ma si consigliava la serra. Dato l'interesse dimostrato dal signor Pinnegar, l'amministratore gli inviava alcuni semi con l'augurio che dessero dei buoni risultati. Bert Pinnegar piantò i preziosi semi in un terriccio di fogliame, trasferì le piantine in grandi vasi e non appena cominciarono ad arrampicarsi, le lasciò crescere fino al tetto, nascoste fra i rami di un cespuglio di rose Marechal Neil. Ben presto cominciarono a comparire dei boccioli lunghi e appuntiti, simili a ombrelli arrotolati, e una mattina avvenne il miracolo. Correndo verso la villa come se avesse il fuoco alle calcagna, lasciò alla porta di servizio una comunicazione per la governante, affinché mandasse la signora alla serra non appena si fosse alzata. L'invito, riferito alla padrona al suo risveglio, fu accolto con calma. Dopo una sontuosa mezz'ora passata nella stanza da bagno, la signora terminò di vestirsi. Parlò con la signora Garlic di alcune faccende domestiche non urgenti, aprì la corrispondenza che aveva ricevuto e dopo aver fatto colazione si avviò lentamente verso la Serra Grande, preparandosi ad ascoltare quale catastrofe fosse successa durante la notte. Trovò Bert Pinnegar fermo davanti al cespuglio di rose Marechal Neil, in attesa già da un'ora. La signora gli sorrise amabilmente. «Buongiorno, Pinnegar». Allora, che cosa è successo? La signora Garlic mi ha riferito che volevate vedermi. E attese con calma di sentire di quale sventura si trattasse. Ma la tensione dell'attesa era stata troppo forte. Bert non trovò le parole adatte all'occasione. Riuscì soltanto a indicare col dito il tetto della grande serra. La signora Charteris sollevò lo sguardo e, vedendo la cascata di fiori blu, emise un gridolino di pura felicità. Riprovò quella stretta al cuore, una specie di soffocamento quasi doloroso. Ecco, volava di nuovo sopra un mare blu, sotto un cielo blu, verso una deliziosa terra che non c'è blu. Oh, Pinnegar, disse, com'è gentile da parte vostra, tanto, tanto gentile. Oh,

Era anche un po' di più. E rientriamo in voce dopo... Sì, scusa, i volumi sono un po' così. Dopo questa mega lettura immersiva, stupenda, bellissima, spero che stiate apprezzando voi all'ascolto, questo sottofondo musicale mi sta esaltando a dir poco. E quindi, che dire, perché aspettare e continuiamo, no? Ci siamo. Ci siamo o no? Non è vero, ecco. Ora ci siete, ora per davvero ci siete. Eccoli, ci siete. Opla. Al periodo vittoriano, col suo rituale solido, rispettabile e piuttosto noioso, subentrarono le effimere raffinatezze del periodo edoardiano. Tutti criticavano tutto del periodo precedente e si dicevano capaci di fare le cose meglio che in passato. Era un mondo che non andava affatto bene al signor Addis e pertanto tutti emisero un sospiro di sollievo quando fu sollevato al cielo in una nuvola di esasperazione e Bert Pinnegar si assise sul suo trono. Non che al signor Pinnegar, come lo chiameremo da qui in avanti, fossero risparmiate le critiche dei suoi coetanei. Camminando per il parco della villa, gravato dal peso dell'onore appena conferitogli, trovò le cesoie del giovane Jim Musto messe di traverso in mezzo a un sentiero erboso, dove erano state collocate con voluta precisione ben 2 minuti prima. Il giovane Musto e un paio di compari erano appostati dietro un cespuglio, sperando di vedere il loro nuovo capo andare fuori dai gangheri. «Di chi sono queste cesoie?» chiese il signor Pinnegar. «Mie, Bert», rispose il proprietario. «Raccoglile», ordinò il signor Pinnegar. «Ma raccoglile tu», ribatté il giovane Musto. «Non è cosa saggia cominciare una discussione se non si è ben sicuri di uscirne vincenti». Il nuovo capo giardiniere aveva 2 alternative, egualmente impraticabili. Non poteva dare un pugno sul naso al giovane Musto perché l'altro era fisicamente molto più grosso e forte di lui. E non poteva fargli rapporto presso un'autorità superiore perché ciò avrebbe significato che non era abbastanza maturo per tenere sotto controllo i dipendenti. Il giovane Musto e i suoi complici lo guardavano sogghignando soddisfatti. Stranamente, il signor Pinnegar non parve inquietarsi, anzi, sembrò molto amichevole. «Senti, Jim, immagina, come potrebbe davvero succedere? Immagina di essere appena stato nominato capogiardiniere, che uno stupido ragazzotto ti dicesse di raccogliere le sue cesoie. Te che cosa faresti?» «Lo manderei al diavolo», rispose il giovane Musto. «Risposta giusta, Jim», convenne il nuovo capogiardiniere, accompagnando le parole con un gesto d'assenso della testa. «Azzeccata in pieno! Se continui così, Jim, uno di questi giorni diventerai capogiardiniere». Abbagliato da quella prospettiva, il giovane Musto si chinò. Raccolse allora le sue cesoie. Ma il suo nuovo capo aveva ancora qualcosa da dirgli. «E Jim», aggiunse con tono benevolo, «quando sarai capogiardiniere, bada che gli altri ti chiamino signor Musto. All'inizio è un po' difficile, Jim, ma ti renderai conto che a lungo andare questo ti converrà». «Sì, signor Pinnegar», rispose. Il signor Pinnegar si rimise in cammino lasciando il trio di bricconi a leccarsi le ferite. Aveva vinto la prima scaramuccia. E almeno per quanto riguardava i suoi dipendenti, non ve ne sarebbero state altre. Fuori dal parco, però, nel villaggio, si sentiva come un pesce fuor d'acqua. Non si può diventare di colpo qualcuno senza provare almeno un po' di imbarazzo. Naturalmente è molto piacevole emergere nell'ambito che ci è familiare, ma fino a quando non ci si abitua si è un po' a disagio. I suoi vecchi compagni continuavano a chiamarlo Bert, naturalmente, ma per gli altri abitanti del villaggio, dal più importante al meno importante, era diventato il signor Pinnegar, che gli piacesse o no. La promozione comportò anche maggiori responsabilità. Alla riunione parrocchiale si discuteva se il vecchio cavalcasiepe che immetteva sul campo di cricket, va bene, fosse diventato un po' pericoloso quando inaspettatamente il presidente si rivolse a lui dicendogli: «Ma signor Pinnegar, non abbiamo sentito cosa ne pensate voi?» La domanda, intesa come un modo garbato di inserirlo nel gruppo privilegiato degli amministratori locali, lo gettò un pochino nel panico. «Andiamo, signor Pinnegar, vivete qui da tanto tempo, come la maggior parte di noi. Ritenete che dovremmo abbattere il vecchio cavalcasiepe e sostituirlo con qualcosa di più moderno? O secondo voi è meglio lasciare le cose come stanno, come le vediamo da tanti anni?» Era la prima volta che il signor Pinnegar si alzava in piedi per parlare in pubblico e le persone più schive sono in grado di capire la terribile solennità di un simile momento. Ma il presidente continuava a fissarlo da sotto le sopracciglia cespugliose. «Beh, maggiore», disse il signor Pinnegar, «se voi pensate che una cosa nuova sia meglio della vecchia, allora cambiare ha il suo lato buono. Ma se voi pensate che il vecchio cavalcasiepe vi piace così com'è, secondo me, possiamo tenercelo per qualche altro anno». Il maggiore era un vecchio combattente astuto, abituato a permettere che i concittadini facessero esattamente ciò che lui riteneva meglio per loro. Non era affatto dell'idea di abbattere il vecchio cavalcasiepe di sassi per sostituirlo con un abominio di mattoni. «Bene, signori», disse. «Avete sentito l'opinione del signor Pinnegar e sono certo che siamo tutti d'accordo con lui. Gli piace il vecchio cavalcasiepe e piace anche a noi. Tutti quelli a favore?» Al termine della riunione, il signor Pinnegar, che in realtà non aveva preferenze a proposito del cavalcasiepe, apprese di avere riportato una vittoria clamorosa, contro ogni aspettativa, e di avere risparmiato al paese natio una contaminazione peggiore di tutte le piaghe d'Egitto messe assieme. Bene, il fatto di essere stato gettato nella gabbia dei leoni e di essersela cavata incoraggiò il signor Pinnegar a sviluppare gradualmente la disposizione naturale a esprimere ciò che pensava nel modo più conciso possibile. Diversamente dai chiacchieroni, che sono sempre pronti a parlare di qualunque argomento, lui si atteneva al proprio campo di competenza e ben presto imparò che il modo migliore di imparare le cose è insegnare a chi ne sa meno di te. Faceva qualche conferenza semplice e breve nei centri sociali del villaggio e passava quasi tutto il proprio tempo libero a leggere libri di giardinaggio, tanto che giunse al punto di essere considerato una specie di autorità in materia. La signora Charteris seguiva con interesse e con non poco sollievo l'evoluzione tranquilla e graduale del suo nuovo capogiardiniere. L'esperimento, perché tale era stato, si stava dimostrando positivo. Il parco era più bello che mai e i vicini cominciavano a copiare i miglioramenti che vi venivano apportati. Una sola cosa temeva: che un estraneo privo di scrupoli le rubasse Pinnegar offrendogli una paga più alta, che lei non poteva permettersi. Ma non aveva motivo di preoccuparsi, il signor Pinnegar non era tipo da dimenticare la bella signora ridente della mostra floreale che gli aveva offerto alla prima occasione della sua vita. Sarebbe rimasto con lei per sempre, per l'eternità. Thank you. Quando uno comincia a farsi strada nel mondo, scopre, con stupore, che la vita è un affare di ingranaggi, ossia che a volte si possono aiutare delle persone che possono aiutarci a loro volta e che ci si scambiano cortesie che vanno a beneficio di entrambi. E dato che due teste pensano meglio di una, si scopre anche che in tal modo si procede verso il raggiungimento degli scopi che ci prefiggiamo al doppio della velocità. I signori di città chiamano i loro omologhi i nostri cari amici. È un principio che vale sia nei quartieri alti di Londra che nella tranquillità di un giardino dei sobborghi. Una sera d'inverno il signor Pindegar stava facendo un ultimo giro di controllo nel parco quando vide il capostazione del villaggio dirigersi verso di lui reggendo un grosso pacco. Si può dire che loro due fossero cari amici. Una volta alla settimana giocavano assieme a domino e le rispettive posizioni sociali consentivano che si chiamassero per nome. «Buonasera, Bert», disse il signor Honey. «Buonasera, George», rispose il signor Pindegar. «Che bel posticino hai, Bert». «Non c'è male, George», convenne. Il signor Honey lasciò cadere il pacco sull'erba e spazzolò via una macchietta di muffa dalla manica della divisa. «È arrivato col treno delle 17:15», disse. «Ho pensato che ti avrebbe fatto piacere averlo per domani mattina presto». «Ah, ma non dovevi disturbarti, George», disse il signor Pindegar. «Avrei mandato uno dei miei ragazzi. Non spetta a te attraversare mezza contea trasportando un pacco così grosso». «Nessun disturbo, Bert», ribatté il signor Honey. «Ho fatto un po' di ginnastica. Volevo scambiare quattro chiacchiere con te a proposito di una novità arrivata fresca fresca. Più di tua competenza che mia. Io, sai, non sono che un capostazione». Il signor Pindegar attese ulteriori delucidazioni. «È arrivata una lettera dalla centrale di Paddington. Pare che ogni stazione della linea ferroviaria cittadina dovrà avere un giardino per renderla, sai, un po' più allegra e per distrarre l'attenzione dei passeggeri quando un treno è in ritardo, dico io». «Beh, non è una grande novità», disse il signor Pindegar. «George, ne parlano da secoli, ci sono anche sulle chiuse del Tamigi. Pensa che ne ho perfino visto delle foto sull'Illustrated London News». Il signor Honey accolse le correzioni con tranquilla dignità. «Lo so bene quanto te, Bert, il punto è che adesso hanno ampliato il progetto per comprendere tutti, per dare a tutti noi la possibilità di vincere, che il diavolo se lo porti!» «C'è un elenco di premi lungo quanto un braccio e una comunicazione speciale del direttore generale in persona, il quale dice che spera che ogni stazione, per quanto piccola, ci dovrà provare. È un ordine che, mi piaccia o no, devo darmi da fare. E perciò mi rivolgo a te, Bert». «Ma manderanno una specie di commissione di controllo?» «Altro che», gemette il signor Honey. «In fracca e cilindro, come un funerale, il mio funerale, se non mi metto subito all'opera». «Senti, ma quanto tempo hai?» «Cominciano la primavera prossima e fanno il giro completo della linea ferroviaria», rispose il signor Honey. «Ci piomberanno addosso tra aprile e ottobre e se non troveranno questo maledetto posto pieno di rose in fiore, ci toccherà una multa coi fiocchi. Ci aiuterai, Bert?» Come ben sappiamo, il signor Pindegar era uno che ci pensava bene prima di prendere una decisione. Sollevò il pacco, lo portò nel capanno degli attrezzi, andò a piedi fino alla stazione ed esaminò, nella luce morente del giorno, il terreno di battaglia, più o meno come avrà fatto Wellington la vigilia di Waterloo. E mentre girava lo sguardo esperto sul conglomerato di lampioni, carrelli e botti per l'acqua piovana indirizzava parole di conforto all'infelice capostazione. «Senti, George», disse, «su questo lato non c'è niente da fare, puoi solo tenerlo pulitissimo e in ordine. Bisogna lavorare su quel terrapieno e molto dipende da quando arriverà quella benedetta commissione. Secondo me, George, procederanno lungo la linea ferroviaria principale e arriveranno qui all'ultimo. Il che significa proprio alla fine della stagione, a ottobre. Quello sarà il nostro obiettivo, George. Adesso, cosa offre di spettacolo un giardino in ottobre?» Il signor Pindegar era in grado di dirgli quanto ritardo poteva portare il treno delle 17:30, ma non altro. Pertanto, molto saggiamente, tacque. Gli astri, George. Ecco cosa devi usare. Uno spettacolo grandissimo, bellissimo, di astri. La settimana prossima disfiamo le bordure e buttiamo via tonnellate di astri, abbastanza a coprire una montagna. Sono contento di avere un posto dove depositarli. Ora tu metti i tuoi uomini a vangare il terrapieno e io ti mando due carrellate di roba, di sera. Non c'è bisogno di far sapere a tutti cosa stiamo facendo. Dirò ai miei ragazzi che ci hai dato il permesso di scaricare dove ti è d'intralcio e tu li sistemi durante la notte. Che ne dici, George? Il signor Honey gli chiese cosa sarebbe successo se la commissione avesse invece deciso di cominciare dalle linee secondarie procedendo, diciamo, al ritroso. E il signor Pinnegar lo tranquillizzò. Quel modo di comportarsi andava in senso anti-orario, era praticamente contro natura. La gente comincia sempre da ciò che ha sotto il naso. Certo, il rischio c'era, ma valeva la pena di correrlo. Bene, era deciso. La roba sarebbe arrivata mercoledì, poco dopo le 6. Che ne diceva di una partitina a domino, invece? Andò tutto come aveva detto il signor Pinnegar. La primavera passò, l'estate si tramutò dolcemente in un autunno dorato, il raccolto era stato riposto. Il signor Honey cominciava a temere di aver fatto tutto quel vangare per niente, quando dal treno delle 11:30 scesero tre persone d'aspetto importantissimo. Forse un po' nauseati a forza di vedere i giardini preparati dai capistazione, ma comunque disposti a godersi il sole di una bella giornata ottobrina. Il signor Honey li individuò all'istante e ordinò al suo vice di andare a tutta velocità ad avvisare il signor Pinnegar che l'ora era suonata. E cosicché, prima ancora che terminassero le presentazioni, il capo giardiniere della villa si trovò casualmente a unirsi al gruppo. Seguendo le istruzioni, il signor Honey non era corso a testa bassa incontro ai visitatori, lasciando che fossero loro a prendere iniziativa, e si mostrò un po' sorpreso quando portarono la conversazione sull'argomento dei giardini. Ma lui dedicava quasi tutta la giornata al lavoro d'ordinaria amministrazione di capostazione. Certo, gli piaceva vedere il posto ben ordinato, ma con tutto quello che aveva da fare non gli rimaneva tanto tempo da dedicare al giardinaggio. Il signor Pinnegar, lui sì che era un giardiniere invece. Il signor Pinnegar si schermì con un gesto della mano. Per carità, tutto ciò che sapeva di giardinaggio l'aveva imparato dal signor Honey, il suo vecchio amico. Lui sì che era un giardiniere. E se non erano convinti che guardassero quegli astri, in tutto il paese non c'era niente che reggesse il confronto. Già, da sempre George si accaparrava tutti i premi con i suoi astri. Che spettacolo era stato l'anno passato! E a quel punto il signor Pinnegar diede al signor Honey, che lo guardava esterrefatto, un calcetto amichevole sulla caviglia che lo fece zoppicare per il resto della settimana. Come previsto, i signori di Paddington furono molto colpiti. Di sicuro non avevano mai visto nelle loro vite sommate assieme un tale spettacolo di astri, e senza dimenticare che tutto era stato fatto fuori dall'orario di lavoro, per il puro piacere di farlo. Il signor Pinnegar diede un altro colpetto alla caviglia dolorante del signor Honey e se ne andò, scomparendo nella campagna indistinta dalla quale era casualmente sbucato. 3 mesi dopo si venne a sapere che il primo premio per il più bel giardino delle stazioni del settore occidentale era stato assegnato al signor George Honey, ex capostazione di Fairfield, da poco promosso a capostazione di Swancombe Junction. Ma la storia non finisce qui. Una fredda mattina di marzo, un gruppo di giardinieri professionisti provenienti da tutta la contea è fermo sul marciapiede di testa della Swancombe Junction in attesa del treno per Londra per partecipare a un convegno. Improvvisamente dalla nebbia gelida esce un personaggio imponente che indossa un uniforme elegante con galloni dorati. Il capostazione, perché di lui si tratta, si avvicina al componente più giovane dall'aspetto meno distinto di quel distinto gruppo. «Ma guarda un po', il signor Pinnegar!» esclama. «Ma che piacere! Se voi e i vostri amici aspettate qui, quando il treno arriverà, vedremo di sistemarvi per bene. Non vi si vede spesso da queste parti, signor Pinnegar. Ci avete dimenticati, vedo. Oh, eccolo che arriva!» Il treno rallentò e si arrestò. Ai giardinieri stupefatti fu riservato un trattamento simile a quello usato con i membri della famiglia reale. Se ce ne fosse stato il tempo, George Honey avrebbe fatto mettere il tappeto rosso. Non potendo farlo, offrì la migliore alternativa possibile. Carrozza di prima classe, una mezza dozzina di scaldapiedi, avvertì il capotreno che quei signori non erano viaggiatori comuni. E omaggio supremo, il capostazione rimase fermo sul predellino del treno ad augurare loro ancora una volta buon viaggio, mentre il convoglio usciva lentamente dalla stazione. «Perbacco, signor Pinnegar», disse il capogruppo. «A quanto pare siete noto da queste parti. Non avrebbero potuto trattarvi più premurosamente, neppure se fosse stato il sindaco di Londra». Ma il signor Pinnegar non rispose. Si stava massaggiando una caviglia dolente, a cui il capostazione aveva allungato un calcetto scherzoso durante la sceneggiata. Come gli elefanti, George Honey non dimenticava. Ed eccoci, eccoci con le nostre vocine, i nostri suonini, vi accendo tutti i microfoni. E... Ok, non è partito siamo niente vivi. Da solo. Allora, perfetto. Allora? Porca troia. Siete attenti. Quanto eccoci è? Dopo ci sono delle domande sulla storia. Attenzione. Esatto. Ultima puntata. Analisi fa. Del test. Bello, figure retoriche. No, quello sondaggio. No. Che colore erano le pecunie? Esatto. Bello, bello. Allora, quindi questa quarta puntata di audiolibro è arrivata al suo termine. Per questi audiolibri facciamo puntate un po' più corte, perché forse potrebbero essere un po' pesanti altrimenti, quindi un'oretta, dai, ci sta, bella. E spero che voi ascoltatrici abbiate gradito quanto me, almeno quanto me, questo sottofondo che vorrei ricordare, tutto live, tutto improvvisato, niente era programmato, giusto per essere chiari. Siamo bravissime. Bravissime siete. Siamo nessuno. Bellissimo, veramente bellissimo. Io spero di avervi di nuovo qui tra noi, qui con me. Esatto. E allora, direi che potremmo mandare un ultimo pezzo che, nonché tra l'altro l'ultimo pezzo che ci manca di sentire da questo vostro nuovo album di Arrangia Meccanica. Trash. No. Tonton, Trash, che devo no, mettere? Sì, scusa, ah, l'album. No, ah, scusami. No, giusto. Ok. Volete dire qualcosa al riguardo? O fanculiamo? Ton. Giustissimo. Giustissimo. Bene, bene, bene. Con questo direi che possiamo concludere. Con Nervature ci risentiamo settimana prossima, sempre lunedì, sempre alle 19. Mi raccomando, rimanete connesse su Radio Wombat. Continuate ad ascoltarci prima, dopo e durante. Buona serata a tutte e tutti. Ciao. E questa è... Ciao. Pianta storie. No. Devi dire... Esatto. Tonton. Perfetto. Buona serata. Ciao. Ciao. Ciao. Sto per dire una stronzata, eh? Sei pronto? Ma se fosse un po' reggaeton, ton, un reggaeton, ton, un reggaeton. Where you stand? Ma se fosse un po' reggaeton.